Chiama CDK33 perché è l'argomento generale generico. E appunto quella la notizia che è uscita anche su alcuni media mainstream relativa alla questione dei di alcuni medici che hanno insomma. Adesso la vediamo, però innanzitutto a un medico chiediamo la sua visione del corteo di oggi. Dici a che punto eri, in quale spezzone hai partecipato se si può, e che cosa hai visto più o meno dalla tua prospettiva. Domanda: dove era la testa del corteo, se tu l'hai vista? Perché ancora nessuno ha idea di dove fosse questa testa del corteo. La testa del corteo non l'ho assolutamente vista. Nonostante sia partito da Aldo Moro per cercare di raggiungerla, dato che avevamo riempito gli zaini di disinfettante, garze e quanto necessario per il primo soccorso. E siamo andati avanti e fino a raggiungere i vari luoghi degli scontri. Io mi sono trovato all'angolo tra via Merulana e via Labicana e c'erano vari manifestanti feriti con la testa spaccata. Era un ragazzo che stava facendo fotografie e all'improvviso si è sentito una botta in testa mentre la polizia avanzava scendendo dalla via in fronte via, via Merulana. È stato medicato, fermata l'emorragia e soprattutto c'è stato l'episodio di cui parlavi te, cioè dei medici sono stati fermati in pronto soccorso perché prestavano soccorso ai feriti. Nel contesto c'erano i carabinieri che chiedevano le generalità dei feriti. I medici si sono opposti rischiando una denuncia, mi sembra di aver capito. Non so bene come funziona, magari ci sai dire un po' come funziona. Sì, per il medico c'è l'obbligo di denunciare alle forze dell'ordine se il soggetto ferito è coinvolto in un particolare reato. In quel caso c'è l'obbligo di denunciare il ferito alle forze dell'ordine, altrimenti no. Se consideriamo reato essere presente alla manifestazione e ricevere una manganellata, in quel caso teorico i medici avrebbero dovuto denunciarli, ma non è così. Il servizio sanitario è primario per tutti, fondamentalmente. Va bene, ok, giusto, non ti impegniamo tanto perché sappiamo che sei stanco anche tu. Allora ti ringraziamo di questo aggiornamento a Medicina 33, Dica 33 sul tuo punto di vista di quello che è stato il corteo. Non so se hai idea di quelli che possono essere ulteriori sviluppi che avverranno nei prossimi giorni, o se comunque come piazza ci si è riconvocati, oppure per il momento hai idea di che cosa potrebbe avvenire? Non ho assolutamente idea di cosa potrebbe avvenire. In realtà l'idea promossa di accamparsi e creare un presidio permanente in San Giovanni era l'idea geniale, nel senso per iniziare una protesta al pari degli altri paesi europei, come l'esempio della Spagna. Però la piazza ha deciso in un altro modo, ha preso una svolta differente la manifestazione. Ma quindi un'altra cosa che non abbiamo potuto vedere chiaramente è se c'era gente pronta a campare, cioè vedevate tende in giro oppure no? Io non ho visto nessuna tenda, ma non sono neanche arrivato a San Giovanni. In tutto il corteo no, nessuno portava con sé una tenda. Però San Giovanni non ho idea, perché i blindati hanno accerchiato tutti i manifestanti all'interno di San Giovanni, disperdendo poi tutti gli altri. Va bene, non ti stressiamo più, va bene, si vede dalla faccia che sei abbastanza stanco anche tu. Allora niente, lasciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in simpatica compagnia di un altro po' di musica. Magari avremo modo di insomma sentire qualche altro qualche altra corrispondenza, insomma qualche altro racconto da chi è stato in piazza oggi, non come noi che siamo stati chiusi qui dentro tutto il giorno. Ed è stato un gran piacere, però Gaglia, che arrivano calci da tutti i punti. Comunque italy.indimedia.org per trovare informazioni aggiornate minuto per minuto, e transizionedifase.org per trovare questi podcast di queste interviste. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Aia!